A bordo campo di Dario Ricci. Il meeting della rinascita, questa l'iniziativa che sta attraversando in questi giorni l'Emilia-Romagna. Beh, lo sapete, è trascorso già un anno dal terribile terremoto che 12 mesi fa fece distruzione e vittime nell'Emilia-Romagna. Ve l'abbiamo raccontato qui a Radio 24 con i nostri inviati, i nostri corrispondenti, le voci dei protagonisti. E come ben sapete, proprio anche qui a bordo campo, lo sport vuole dare, sta dando, sta facendo la sua parte per far ripartire l'Emilia-Romagna. Lo fa anche a un anno di distanza da quella terribile tragedia con questa iniziativa, appunto il meeting della rinascita, che fino al 2 giugno attraverserà l'Emilia in 5 comuni: Crevalcore, Cento, Pieve di Cento, Finale Emilia e Sant'Agostino. 3.000 atleti di 18 discipline sportive non olimpiche e non paralimpiche. Faccio un esempio, alcuni esempi: basket 3 contro 3, il rugby, il kung fu wushu, il dodgeball, il bowling, il fly skying, cioè il frisbee, la palla tamburello e via così, tutte discipline non olimpiche che porteranno atleti, sport, iniziative, attività nelle terre dell'Emilia che si stanno rialzando dal terremoto. Questa è la storia di cui vogliamo parlarvi oggi a bordo campo. Lo facciamo col primo dei nostri ospiti, Mauro Fizzoni, presidente del comitato organizzativo proprio del meeting della rinascita. Benvenuto dottor Fizzoni a bordo campo. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, presidente, ci spieghi un po' come nasce questo meeting e poi parleremo anche del fatto che avete deciso di mettere soprattutto insieme le discipline non olimpiche. Beh, nato proprio per valorizzare le discipline che non abbiamo visto alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. Non avevamo pensato di organizzare alcunché nel 2013, poi c'è stato un terremoto e abbiamo definito tutti insieme di preparare e di mettere in campo un meeting che ricordasse l'evento sismico a un anno di distanza. Noi avevamo un programma che ci portava più in là negli anni, ma abbiamo ritenuto di fare una prova generale. Diciamo, ecco, una prova generale che però è una prova generale di solidarietà nei confronti di un territorio tanto martoriato. Noi abbiamo messo insieme circa 20 discipline, le più disparate, che non vediamo alle Olimpiadi. Programma ricchissimo di attività sul territorio, proprio perché è l'occasione per testimoniare la vitalità dell'Emilia colpita dal sisma, ma anche al tempo stesso la vitalità e la forza di queste discipline che, non essendo nel programma olimpico, spesso sono discipline di nicchia che sfuggono anche alla grande popolarità delle altre, no? L'idea era proprio quella di fare massa critica, cioè se singolarmente ogni singola disciplina ha un appeal, un audience sicuramente limitato sia nei confronti dei media che nei confronti di un eventuale sponsor, messi tutti insieme invece facciamo un bel numero e cominciamo a diventare appetibili, e lo si vede già da questo meeting, perché noi nelle aree del terremoto porteremo, come ho detto, 18-20 discipline, 2.500-3.000 atleti più tutto quello che c'è intorno, per cui giudici, tecnici, appassionati. E a livello nazionale, dati ufficiali del CONI, siamo il quarto sport nazionale messo insieme e il primo sport a livello scolastico, per cui cominciamo a essere una bella realtà. E per la prima volta stiamo lavorando tutti insieme in sinergia. Ecco, vedremo. Abbiamo progetti ambiziosi, il prossimo anno un evento nazionale in Emilia-Romagna sempre, incentrato su Bologna. E nel 2015 probabilmente abbiamo contatti con Expo Milano e poi vedremo quello che succederà. L'idea è quella di arrivare a candidare l'Emilia-Romagna come sede ufficiale dei World Games nella prima data utile. Direi che è un punto di partenza che ha già ben definito il suo punto d'arrivo. Le gare sono iniziate ieri, sabato, con gare in tutti i comuni che prima vi ricordavo. In particolare oggi a Sant'Agostino si gioca a palla tamburello, e poi sport equestri, a Crevalcore è allestito un campo da dodgeball, a Pieve di Cento si gioca a rugby, poi impegnati anche i comuni di Trebbo di Reno con il paddle e Casalecchio con il bowling. Quindi insomma tante discipline che stiamo imparando a conoscere piano piano. E abbiamo anche un altro ospite, Francesco Franceschetti, presidente della Federazione di Ultimate Frisbee. Presidente, benvenuto a bordo campo. Sì. Buonasera a tutti. Oh, Presidente, mi perdonerà, mi scuserà, anzi sono io che me ne scuso, sì, ci spieghi un po' l'ultimate frisbee, perché fino a frisbee ci arriva, è quello che si fa all'estate, sì, sulla spiaggia. È il disco che vola, che generalmente i ragazzi si passano di mano sulla spiaggia o in altri luoghi. Ma il disco è diventato uno sport di squadra, mutuando alcune regole dal rugby ed alcune dal pallacanestro. Ah, bello, bello. Si gioca 7 contro 7, chi è in possesso del disco deve rimanere fermo, non può correre col disco in mano, come nel basket può usare il piede perno, e deve dare il disco ad un compagno. Quindi i compagni devono collaborare, cooperare, perché possa passare il disco da una mano all'altra. Ci si danno pure delle belle mazzate, immagino, perché c'è un bel contatto fisico. No, assolutamente no, perché non c'è contatto. E quindi, meno male, perché sì, no, io per una cosa simile l'ho giocata ad un campeggio e mi hanno gonfiato. No. Qui, anzi, questo è proprio lo sport che sta prendendo piede, perché possono giocare in formula mista uomini e donne. Oh, bello questo. Non essendoci poi appunto lo scontro fisico, anche chi è meno forte trova uno spazio di manovra. Certo. Tra l'altro so anche che va arbitrata in modo particolare, no, Presidente? Sì, non c'è l'arbitro. Oh, ecco, quindi, questa è una buona notizia, non per carità, non contro la categoria, però... E devo dire che, siccome sono 24 anni che seguo questo sport attivamente, ho visto tornei nazionali e internazionali a Gogo, devo dire che non c'è mai stata una discussione oltre le righe. Per far capire anche agli ascoltatori, quando c'è un caso controverso si fa un attimo capannello tra le due squadre e si scioglie la situazione. No, la situazione è questa: quando c'è un fallo, chi lo chiama alza la mano, tutti si fermano dove si trovavano, i due che sono coinvolti nel fallo si spiegano, botta risposta, se con botta risposta non trovano un accordo, la soluzione, si riparte da quell'istante lì e il gioco continua. Insomma, si dialoga anche molto in questa disciplina. Si dialoga molto, e poi c'è un premio finale in tutti i tornei che è ambito come quasi la vittoria del torneo stesso. Ah, il premio è lo spirito del gioco. Chi ha interpretato meglio, con più correttezza, le regole del gioco. Ogni squadra dà un voto alla squadra che ha incontrato, e quindi alla fine c'è una classifica, e chi risulta più votato vince lo spirito del gioco. Molto interessante, molto interessante. Ultimate Frisbee, ricordiamolo, per chi poi vuol cercare un po' di informazioni. Venite tutti a vederlo, perché scoprirete un mondo nuovo. Intanto qualcuno banalizza, pensa che sia un gioco semplice questo passaggio del disco, invece ci vuole una grande abilità nel passare il disco, perché se c'è vento, per esempio, diventa un bel problema. Bisogna essere molto veloci, bisogna essere resistenti, bisogna saper saltare, sapersi tuffare, quindi ha tutti gli ingredienti per essere uno sport anche fisico. Bene, molto, molto interessante. È importante che il meeting della Rinascita faccia conoscere anche queste discipline. Tra l'altro, le istituzioni politiche della zona hanno comunicato lo stanziamento di 22 milioni di euro per dotare i comuni colpiti dal sisma di 24 palestre scolastiche temporanee al servizio della didattica e dell'intera comunità. Quindi, Presidente Fizzoni, tornando a lei, direi che il meeting vuole essere anche un catalizzatore di questo processo, perché lo sport migliora la qualità della vita anche e soprattutto in queste situazioni estreme, no? Ma indubbiamente, poi diamo un segnale di rinascita, come la denominazione del nostro meeting, perché anche lo sport è importante, anzi è fondamentale tante volte. Per cui in quelle aree sono venute giù le case, sono venute giù le chiese, e poi sono venuti giù anche i palazzetti dello sport, per cui pian piano si deve ricostruire tutto. Poi ci tengo a precisare che i nostri sport, la maggioranza, si fanno all'aria aperta, per cui è stato anche semplice portarli in questo momento di disagio per queste aree, per cui non abbiamo bisogno di grandi aree. Prima si parlava dell'ultimate frisbee che si fa in un prato, il mio è l'orient tearing e si fa all'aria aperta senza nessun tipo di struttura. Perciò ecco, sì, lo sport è importante in questo momento, abbiamo coinvolto le amministrazioni locali, lei ha menzionato lo stanziamento dalla Regione Emilia-Romagna, i comuni si stanno attivando tutti, chi più che meno, ma qualche cosa stanno risolvendo. Ecco, c'è molto attivismo e lo spirito emiliano sta emergendo in questo momento e noi cercheremo di fare la nostra parte, non porteremo grandi risorse economiche, però intanto un segno di solidarietà e anche un indiretto aiuto, perché anche solo 3.000 persone che per alcuni giorni dormono, mangiano, fanno spesa, comprano qualcosa sul terreno, lasciano qualcosa sicuramente. E poi soprattutto si fa cultura dello sport. E allora l'appuntamento fino al 2 giugno col meeting della Rinascita, Crevalcore 100, Pieve di 100, Finale Emilia e Sant'Agostino. Buon lavoro e tanto divertimento allora a Mauro Fizzoni, presidente del comitato organizzativo del meeting. Grazie agli ascoltatori e spero di vedere qualcuno degli ascoltatori sui campi. Eventualmente abbiamo il sito internet sul quale trovare le informazioni, www.nolympicsports.net. E grazie anche a Francesco Franceschetti, presidente della Federazione Italiana Ultimate Frisbee. Bene, arrivederci sul campo. A bordo campo. Ultime pedalate del Giro d'Italia, oggi e anche qui a bordo campo vogliamo onorare la Corsa Rosa e soprattutto il momento più emozionante, quello che ci ha più emozionato, quella tappa che ha onorato le vittime della tragedia del Vajont. Erano le 22.39 del 9 ottobre del 63 e nel bacino idroelettrico artificiale del Vajont una frana si staccò dal versante nord del Monte Tocche e precipitò nel lago facendolo tracimare. Il fronte d'acqua superò la diga con un'onda di oltre 100 metri e si abbatté sui villaggi, sulle cittadine di Erto, Casso e spazzò via il paese di Longarone. Alla fine i morti furono 1918 e per settimane gli alpini lavorarono per liberare la zona dal fango e soccorrere i superstiti. Ebbene, tra quegli alpini c'è un uomo che al Giro d'Italia e alla passione per la bicicletta è allegato a doppio filo, perché è Giuseppe Bigolin, presidente della Selle Italia, un'azienda leader mondiale nella realizzazione di selle da bicicletta di alto profilo. E oggi proprio Giuseppe Bigolin è il nostro ospite qui a bordo campo. Benvenuto, signor Bigolin. Grazie. Beh, signor Bigolin, domanda sicuramente banale ma anche d'obbligo. Credo che quella tappa sul Vajont sia stata per lei un'emozione incredibile. Sì, incredibile anche perché, come avevo già detto in un'altra occasione, dopo il fatto drammatico della tragedia del Vajont, io da quelle parti non c'era più stato. E lei invece fu proprio nelle ore immediatamente successive al disastro tra gli alpini chiamati ad operare sul campo, no? Come apprese la notizia? Come venne informato? Venivo dal CAR di Boves, CAR avanzato in Piemonte, e siamo arrivati a Belluno proprio la notte della tragedia. Quindi la mattina appena arrivati in caserma, io ero al comando della brigata Cadore, ci hanno portato immediatamente su al Vajont. Si parlava subito della diga che era andata giù. Quando siamo arrivati siamo stati sorpresi a vedere questa diga, cioè tutto questo disastro, era un paese lunare e la diga ancora in piedi, che è stato poi anche motivo di grande preoccupazione, perché c'era il pericolo, almeno così si diceva, che il Monte Toc che ha franato avesse minato le basi della diga e che la diga potesse crollare con le conseguenze che lei può benissimo immaginare. Infatti ho letto nella splendida intervista che ha rilasciato al collega Paolo Condò della Gazzetta dello Sport che proprio mentre soccorrevate e cercavate i superstiti e scavavate nel fango, i pochi attimi di riposo venivano trascorsi con gli scarponi ai piedi proprio per paura di dover scappare il prima possibile. È sempre c'erano le foto elettriche del genio Pionieri che anche durante tutta la notte monitoravano, c'erano dei pali di una linea elettrica proprio vicino sotto la diga da entrambi le parti e continuavano sempre a monitorarle per vedere se ci fossero stati dei movimenti, che si fossero mossi sti pali significava che c'era il pericolo dello smontamento della frana, e quindi era una tragedia, eravamo mia. C'era il completo quarto corpo d'armata sotto la diga. Ecco, quanti eravate voi alpini sul campo? Eravamo, c'era la brigata Cadore era composta di 1300 militari, non erano mica tutti là, perché c'era insomma altri distaccamenti anche del Feltre o quelli che andavano a fare le guardie in Alto Adige. Comunque nel complesso eravamo tra alpini e fanteria, eravamo sui 4000 uomini. La prima immagine che ricorda appena arrivato nella vallata? La prima immagine è di un paese, come dicevo prima, un aspetto lunare, non esistevano più edifici, proprio la piana di Longarone, c'erano dei grandi ammassi di ghiaia e basta, carcasse di animali, mucche e roba del genere che poi sono state distrutte con lanciafiamme e appunto purtroppo i cadaveri di tutta questa povera gente che è morta, cadaveri mutilati quasi nella maggior parte dei casi. A raccontarci quell'Italia che non c'è più, ma che anche grazie al giro e grazie alle sue parole rivive ancora nella nostra memoria, c'è anche l'immagine degli immigrati dalla Germania, no? Che erano tornati sul posto appena saputa la notizia per vedere che cosa era rimasto delle loro case e soprattutto per ritrovare, con la speranza di ritrovare qualcuno dei loro parenti in vita, vero? Perché in quella zona lì c'erano tanti che erano andati in Germania, che avevano i bar gelaterie, no? Su in Germania, in tutta la Germania, quindi parecchia gente, e questi qui che avevano lasciato a casa i loro anziani e sono tornati subito, erano delle scene di disperazione, c'era questa gente che arrivava smarrita, guardava, cercava in qualche modo di orientarsi per capire dove potesse essere stata la loro casa, e poi quando secondo loro avevano individuato il posto, cominciavano a mani nude a scavare la ghiaia e ci chiamavano: alpino, aiutami, qui c'è mia mamma. Scene veramente dure, difficili. Forse veramente solo gli alpini potevano svolgere quel compito, no? Per il legame emotivo che hanno con la storia di questo paese. Beh, guardi, sinceramente ho pensato che a questo, però sì, era un dovere, insomma, non c'era mica da discutere, lì si fa con spirito bene, gli alpini. Mi vanto di poterlo dire, insomma è gente che collabora in molti casi, però se devo fare anche una riflessione un po' più avanti, vent'anni prima i ventenni come me affrontavano la campagna della Russia, quindi non siamo mica stati gli eroi, abbiamo fatto il nostro dovere come era giusto fare, come si fa. Ecco, vederci le biciclette, vederci la corsa rosa, rendere omaggio alle vittime di quella tragedia, che emozione le ha dato, che sensazione le ha dato? Ma la sensazione, cioè, l'emozione è stata forte dentro di me, perché ripeto, dopo 50 anni mi sono ritrovato e un po' rivissuto quel periodo. Naturalmente la carovana, i corridori, questa gente qui, sì, sicuramente qualcuno gli aveva raccontato la storia del Vajon, però sicuramente una circostanza, una situazione diversa da quella che è una delle altre tappe, però come tutte le cose, quando non le vivi, insomma, ti colpiscono meno. C'è una lezione che da quella tragedia è arrivata all'Italia di oggi, secondo lei? La lezione è quella che l'Italia deve essere unita sia nelle disgrazie come anche nei tempi duri che stiamo vivendo adesso. E l'unico modo per venirne fuori è quello di collaborare tutti facendo quello che serve per risolvere i problemi, e questo in particolare mi piacerebbe dirlo ai giovani, che l'Italia è composta di gente, cioè una nazione fortissima dove abbiamo delle potenzialità immense, e guai piangersi addosso, dobbiamo guardare avanti e fare quello che serve. Perché ne veniamo fuori sicuramente. E beh, è una vera risposta d'alpino quella che ci ha dato Giuseppe Bigolin, presidente di Selle Italia, e soprattutto tra gli alpini che 50 anni fa provarono a lenire quella ferita nata in quella vallata del Vajont. Presidente Bigolin, mi prendo la libertà, la chiamo presidente, la ringrazio di essere stato ospite di A Bordo Campo. Un messaggio per il giro che saluta e se ne va proprio in quest'anno in cui ha reso omaggio a quelle vittime e a voi alpini che soccorreste i sopravvissuti. Il messaggio, appunto, c'è stato questo episodio in occasione del 50° anniversario,